Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. Eccoci insieme ad Effetto Notte con Marta Cagnola questa sera per chiudere la settimana delle nostre dirette serali e cominciamo con le notizie del giorno. Maltempo sul nord, allerta rosso sulla Liguria, Venezia si prepara al fine settimana con il MOSE. Governo valuta obbligo di mascherine all'aperto, contagi ancora alti ma sono in leggero calo. Un mese alle elezioni americane, polemiche su Trump e il suo entourage. Joe Biden e la moglie sono negativi. Eccoci dunque alle principali notizie della giornata. Intanto parliamo del maltempo, perché il vasto sistema perturbato che sta interessando le regioni settentrionali dell'Italia si estenderà domani a parte delle regioni centrali, con precipitazioni diffuse, anche temporalesche, un rinforzo dei venti che coinvolgerà anche le regioni meridionali e la Sicilia. Il Dipartimento della Protezione Civile ha dunque emesso un ulteriore avviso di condizioni meteo avverse, che estende quello diffuso ieri. Per oggi e domani in particolare è prevista allerta rossa su alcuni settori di Liguria, Lombardia e Veneto. Il Mar Ligure è in tempesta, onde alte anche 6 metri, venti di burrasca fino oltre i 100 km orari. Piove, pioverà molto nelle prossime ore, e già all'alba di oggi un nubifragio aveva colpito la zona tra Chiavari e Sestri Levante con l'esondazione di alcuni corsi d'acqua. Fino a domattina allerta rossa su buona parte della regione, ad esclusione di Genova e della provincia, dove è arancione. Sotto osservazione fiumi e torrenti, in un territorio già fragile e alto rischio di frane. In questo fine settimana la perturbazione atlantica imperversa su buona parte della penisola e allerta rossa pure su alcuni settori di Lombardia e Veneto. Si temono forti precipitazioni sul nord del Piemonte, in particolare in Val d'Ossola e nel Biellese. Acqua alta a Venezia, domani mattina il picco potrebbe sfiorare il metro e 35 centimetri. Le dighe del Mose si alzeranno alle bocche di porto della laguna per proteggere la città. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Gli aggiornamenti sul coronavirus. Il virus oggi circola in tutto il paese, si conferma un aumento nei nuovi casi segnalati in Italia per la nona settimana consecutiva, con un'incidenza cumulativa negli ultimi 14 giorni di 34,2 per 100.000 abitanti. Questa settimana si osserva un lieve aumento dell'età mediana dei casi, 42 anni contro i 41 della settimana precedente. Ancora elevato, ma in lieve calo, il numero dei nuovi contagi in Italia. Nelle ultime 24 ore ne sono stati registrati altri 2.499, 49 in meno, e ancora con un nuovo record di tamponi, oltre 120.000, 2.000 tamponi in più. Stabile l'incremento dei decessi, 23 in un giorno. Le terapie intensive sono al momento sotto controllo, 3 in più nelle ultime 24 ore. Le regioni con più contagi sono Campania, Lombardia e Lazio, dove scatta l'obbligo di mascherina anche all'aperto. Il monitoraggio settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità risulta un contagio diffuso in tutte le regioni. Giovanni Rezza, direttore della prevenzione del Ministero della Salute. Continuano ad aumentare i casi di Covid-19 nel nostro paese e l'RT supera, anche se di poco, l'unità. Si registrano focolai e casi sporadici un po' in tutte le regioni italiane, il che sta a dimostrare una trasmissione diffusa del virus. Anche se non si registra un sovraccarico delle strutture ospedaliere, i ricoveri in ospedale e in terapia intensiva tendono gradualmente ad aumentare. E continuano a salire anche i casi di positività nelle scuole. Secondo i dati diffusi da Lorenzo Ruffino, studente di Economics a Torino, le scuole che hanno registrato uno o più casi sono 918. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Sono oltre 17 milioni le dosi di vaccino antinfluenzale ordinate dalle regioni, il 70% in più dell'era pre-Covid. Lo scorso anno a vaccinarsi sono stati in 10 milioni, pari al 17% della popolazione, pari al 54% nelle categorie a rischio, e cioè ultra 65enni, donne in gravidanza, malati cronici, personale sanitario, forze dell'ordine. L'obiettivo del Ministero della Salute per combattere meglio il Covid è arrivare quest'anno almeno al 75% nelle fasce a rischio, suggerendo comunque a tutti il vaccino antinfluenza e fornendolo gratis anche a bambini da 6 mesi a 6 anni e alle persone sopra i 60 anni. Il TAR ha però chiarito, bocciando un'ordinanza della Regione Lazio, che non possono essere le regioni, ma solo lo Stato, a rendere i vaccini obbligatori. I vaccini possono essere chiesti ai medici di base, che li daranno prima ai soggetti a rischio. Tutte le regioni assicurano che le dosi ordinate basteranno per arrivare al 75% nelle fasce a rischio. I medici di base segnalano finora un quasi raddoppio di richieste da parte degli assistiti, ma il Ministero assicura che altre dosi potranno essere acquistate. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. L'Italia non permetterà di alterare o procrastinare l'entrata in vigore del Recovery Fund. L'intera comunità europea è in sofferenza. Le discussioni tecniche non ritardino l'attuazione, lo dice il Premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Bruxelles. Il Presidente del Consiglio europeo Charles Michel dice: è essenziale attuare il prima possibile quanto abbiamo deciso, è una questione di credibilità. Ma secondo fonti dell'Unione europea è molto probabile lo slittamento dell'accordo. Quarantena al via per il presidente americano Trump e la moglie Melania, positivi al coronavirus dopo i test a seguito della positività di una collaboratrice e consigliera del presidente Hope Hicks, che secondo la rete ABC è sintomatica e sta male. Invece la coppia sta bene, sia Trump sia la moglie avrebbero al momento sintomi lievi. Passiamo al processo Gregoretti. Domani udienza a Catania per il leader leghista Salvini. L'ex ministro dell'Interno è accusato di sequestro di persona per la vicenda che nell'estate del 2019 coinvolse la nave della Guardia Costiera e i 131 migranti a bordo. Sentiamo. 14 mesi dopo la vicenda Gregoretti, Matteo Salvini comparirà a Catania domani come imputato. Il leader della Lega è accusato di sequestro di persona in quanto da ministro degli interni dal 27 al 31 luglio 2019 bloccò lo sbarco di 131 migranti che erano a bordo della nave della Guardia Costiera Italiana. Quello che si apre a Catania domani non è però il processo, ma un'udienza preliminare che serve a stabilire se il leader della Lega sarà rinviato a giudizio e quindi andrà al vero e proprio processo. Ma Salvini ha colto l'occasione della vicenda giudiziaria per mandare in scena la Pontida del Sud, come è stata ribattezzata, una serie di manifestazioni organizzate dalla Lega per rafforzare lo spirito di corpo, radunando a Catania i big del partito. Il giorno dell'udienza arriveranno anche gli alleati di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, e di Forza Italia, Antonio Tajani. Previsto anche un intervento di Salvini dal palco e in contemporanea una sorta di contromanifestazione a cui parteciperanno un ventaglio di organizzazioni, dal PD fino ai centri sociali. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il Comune di Milano, datore di lavoro di oltre 15.000 persone, interviene sulle regole dello smart working. Il Comune di Milano, 15.000 dipendenti, è uno dei principali datori di lavoro della città, tenta dal prossimo lunedì di inserire nuovamente nel tessuto cittadino gli impiegati, riducendo a 6 i giorni mensili di lavoro agile o smart working, che nella maggior parte dei casi è un semplice telelavoro. Fino a giugno erano poco più di 7.000 i dipendenti che hanno lavorato da casa. I sindacati sono ora preoccupati visto l'aumento dei contagi. Certo, la preoccupazione è legittima, ma il problema dello svuotamento delle città in tutto il mondo è reale e grave. Se gli uffici sono vuoti, poche persone mangiano, bevono, si spostano, fanno acquisti, eccetera. Molti esercizi commerciali soffrono o non hanno ancora riaperto. Cosa fare? È una delle domande che ci accompagnerà per mesi, per trovare un equilibrio difficile in questo clima di grande incertezza. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Passiamo allo sport. La favola di Lorenzo Sonego al Roland Garros continua. L'azzurro ha conquistato gli ottavi di finale battendo in 3 set lo statunitense numero 27 del mondo Taylor Fritz. 7-6, 6-3, 7-6, il punteggio finale a favore del piemontese. I viaggi di Radio 24. Quinta e ultima puntata del viaggio di Radio 24 verso le elezioni americane. In questo ultimo appuntamento ci concentriamo sui due candidati alla vicepresidenza, l'attuale vicepresidente statunitense, il repubblicano Mike Pence, e l'aspirante vicepresidente democratica Kamala Harris. Alle elezioni americane mancano, lo ricordiamo, solo 32 giorni. Un uomo contro una donna, l'ombra defilata e rassicurante di Donald Trump contro la prima donna di colore e di origini asiatiche a far parte di un ticket presidenziale nella corsa alla Casa Bianca. 4 years ago I answered the call to join this ticket. Mike Pence ama descriversi come cristiano, conservatore e repubblicano in quest'ordine. Forte della sua base elettorale cristiano-evangelica, è passato da governatore dello stato dell'Indiana a vicepresidente in un ticket che più complementare non poteva essere. Più Trump sale sul palcoscenico oppure twitta compulsivamente, superando ogni linea rossa di comunicazione mai infranta dai suoi predecessori, più Pence si nasconde nell'ombra, defilandosi e osservando una rigida linea di anonimato e lealtà al suo presidente. Del 61enne Pence negli ultimi 4 anni non si ricorda molto, se non la sua guida della task force contro il coronavirus, con risultati peraltro non estremamente brillanti, e per essere stato il primo vicepresidente statunitense ad aver partecipato a una manifestazione pubblica contro l'aborto. It is truly an honor to be speaking with you tonight. That I am here tonight is a testament to the dedication of generations before me. Kamala Harris, 56 anni, è per molti aspetti l'alter ego di Mike Pence. Figlia di una ricercatrice indiana e di un docente universitario giamaicano, la Harris è il tipico prodotto del sogno a stelle e strisce. Avvocato di formazione, ha salito tutta la scala sociale fino a divenire procuratrice generale della California, la prima donna nella storia. 3 anni fa il salto in Senato, poi la candidatura alle primarie democratiche con alcuni memorabili scontri con Biden. Kamala Harris è l'opposto di Pence anche nel profilo pubblico. Le sue battaglie su temi sociali o questioni razziali la portano sempre in prima linea. Più che uno sparring partner, è una politica dal profilo deciso, con un forte senso di giustizia sociale. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Pausa per la viabilità, poi saremo ancora insieme con Effetto Notte. Intimissimi Uomo, boxer a 7,90€, nei negozi e online. Vi presenta... Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Maltempo sul nord, allerta rosso sulla Liguria, Venezia si prepara al fine settimana con il MOSE. Governo valuta l'obbligo di mascherine all'aperto, i contagi ancora alti ma solo in leggero calo. Un mese alle elezioni americane, polemiche su Trump e il suo entourage, Joe Biden e la moglie sono negativi. Ed eccoci ancora insieme con Effetto Notte, questa sera con Marta Cagnola, ma solo per questa sera, poi ci ritroveremo domani con il nostro consueto appuntamento con RadioTube. Allora, come di consueto a quest'ora, un punto sulla politica, anzi direi sulla settimana politica che si conclude oggi con Barbara Fiammeri, commentatrice politica del Sole 24 Ore. Barbara, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, abbiamo visto che nelle notizie del giorno intanto c'è Conte che dà le sue rassicurazioni sul recovery plan, ma insomma probabilmente questo slittamento ci sarà, e il governo che valuta l'obbligo di mascherine all'aperto. Sono ancora questi i temi ovviamente in primo piano, la sicurezza e l'avanzata del virus e le misure europee per sostenere l'economia. Barbara? Beh sì, cioè, certamente, diciamo che oggi se non possiamo parlare ancora di battuta d'arresto, certo c'è un grosso punto interrogativo sul recovery fund, nel senso che alcuni paesi, per motivi che in realtà c'entrano poco con il recovery, ma che potrebbe anche essere invece una scusa, perché stiamo parlando dei cosiddetti paesi frugali, cioè i paesi nordici da una parte, dall'altro Orban che è l'ungherese, il premier ungherese, e la Polonia dall'altro, l'oggetto del contendere non è il recovery, Marta, bensì lo stato di diritto, cioè di fatto si vorrebbe legare l'ottenimento dei fondi europei a comunque al rispetto di uno stato di diritto che in Polonia e in Ungheria è fortemente messo in discussione da alcune decisioni che sono state prese dai governi, per esempio per quanto riguarda il rapporto con le corti costituzionali e con i magistrati, con la magistratura in genere, mettendo a repentaglio l'indipendenza della magistratura. Allora, i paesi del nord Europa chiedono sostanzialmente che venga rispettato questo stato di diritto, dall'altra parte si oppongono i diretti interessati, e tutto questo che cosa fa sì? Fa sì che si blocchi il confronto, e tanto che la Germania, che sappiamo la Merkel in questo momento sta presiedendo, no, il semestre, è stata costretta a dare quasi per certo uno slittamento del via libera al recovery. Quindi diciamo che questa promessa di Conte non slitterà, insomma non sarà facile da mantenere. Invece sì, anche perché teniamo conto che poi ci dovrà essere, e questo è un passaggio successivo, per questo il rischio di slittamento, perché non sono i 15 giorni, cioè se adesso si sta parlando di fine ottobre, quindi non è che stiamo parlando di un periodo, cioè dal 15 ottobre arriveremo a fine ottobre. Il punto non è questi 15 giorni, è che poi comunque i parlamenti europei dei singoli paesi dovranno ratificare questo accordo che è stato raggiunto in Europa, e sappiamo che alcuni paesi come l'Olanda, che andrà ad elezioni a marzo, insomma saranno in difficoltà per ratificare un accordo che prevede 200 miliardi all'Italia, e quindi il rischio insomma che queste motivazioni come quella sullo Stato di diritto siano utilizzate un po' come una scusa, no, per ritardare i tempi, insomma. Diciamo, come diceva qualcuno, a pensare a normale si fa peccato, ma qualche volta ci si azzecca. Esatto. Invece, per quanto riguarda appunto la lotta al Covid, dicevamo, si valuta l'obbligo di mascherine all'aperto. In effetti, i numeri, sebbene in leggero calo l'aumento rispetto al giorno precedente, sono comunque numeri che cominciano a essere importanti. Allora, i numeri sono importanti, anche se bisogna sempre ricordare che rispetto a quando i numeri erano preoccupanti veramente, oggi il numero dei test che noi facciamo è molto elevato, e per di più, mentre prima lo facevamo prevalentemente sui sintomatici, quando dico prima mi riferisco a prima del lockdown, no? Cioè durante il lockdown, scusami, prima della fine del lockdown volevo dire. Cioè, in quel momento i tamponi si facevano solitamente alle persone sintomatiche, cioè a chi aveva già la febbre, chi stava male. Adesso invece i tamponi vengono fatti molto più a tappeto. Perché? Perché basta una persona che è sintomatica e che è appunto positiva, e vengono immediatamente tracciati tantissimi altri che hanno avuto contatti e a loro volta altre persone. Quindi il numero dei tamponi, abbiamo visto, è molto elevato adesso, per fortuna, aggiungo. Detto questo, è vero quello che dicevi, cioè c'è una soglia di, come dire, di attenzione molto elevata in questo momento, perché stanno aumentando, ma soprattutto, Marta, quello che sta aumentando e che preoccupa come al solito sono l'occupazione dei posti di letto nei reparti Covid e delle terapie intensive. Ancora stiamo parlando in un caso di centinaia e in un caso, nell'altro caso insomma di qualche migliaio, siamo ancora in numeri molto molto molto contenuti, e lo sottolineo, a differenza di quanto avviene per esempio in Francia, però, dove a Marsiglia praticamente le terapie intensive sono esaurite, e dove il presidente della regione Piemonte è preoccupatissimo, perché Piemonte è a due passi dalla Francia, così come la Liguria, e loro sono molto preoccupati, e sappiamo che a Parigi probabilmente partirà un lockdown con chiusura di bar e ristoranti già da domani. Quindi che questa situazione ci sia un allarme generale, anche in Germania sono aumentati tantissimo i casi, quindi diciamo si sta alzando molto la soglia dell'attenzione, anche perché questa volta, diciamo ora in questa seconda ondata, ad essere colpite sono soprattutto le regioni del centro-sud. Certo, è vero che la certo. Lombardia ancora mantiene i numeri alti, cioè è al secondo posto, ma al primo posto c'è la Campania, al terzo posto c'è il Lazio, anche la Sardegna, la Sicilia, cioè le regioni del sud che l'altra volta sono state risparmiate, questa volta invece sono contagiate tanto quanto, se non di più, tanto quanto quelle del nord. E sappiamo però che il sistema, la struttura sanitaria nel sud non è così forte come quella delle regioni del nord, e di qui anche un aumento della preoccupazione, tant'è che, Marta, hai visto bene che in questi giorni, anche nelle scorse settimane, quindi già con un certo anticipo, sono stati proprio i governatori del sud a prendere la decisione, ad esempio, certo, delle mascherine all'aperto, no? De Luca in Campania, la Santelli in Calabria, Musumeci in Sicilia, e oggi è il turno del Lazio e di Bardi in Basilicata. Cioè, voglio dire, è evidente che c'è una preoccupazione che è in crescita, e sono i numeri a decidere, cioè alla fine saranno i numeri a decidere, al di là delle dichiarazioni, rassicurazioni che ci stanno dicendo in questi giorni. Barbara, ma saremo noi stessi. Saremo soprattutto noi stessi, abbiamo una grande responsabilità in questo. Grazie a Barbara Fiammeri, grazie, commentatrice politica del Sole 24 Ore. A prestissimo, Barbara. Ciao, grazie a tutti. Thank you. President Trump and First Lady Melania Trump say they have tested positive for the coronavirus. He tweeted this early this morning, we will get through this together. The news came hours after the president confirmed one of his top aides, Hope Hicks, had also tested positive. Allora, questa mattina ci siamo svegliati con la notizia clamorosa, perché non era certo atteso, e soprattutto dopo mesi in cui prima ha negato, poi si è opposto a usare le mascherine, poi si è deciso a utilizzarle, e invece Donald Trump e Melania sono positivi al coronavirus. Cosa sta succedendo? Ma soprattutto cosa potrebbe succedere adesso? Lo chiediamo a Gianluca Di Tommaso, fondatore di Night Review e NR Edizioni, analista di politica americana per US Insider. Ciao Gianluca. Ciao Marta, buonasera. Allora, la notizia ha ovviamente scosso, perché fino a qualche ora prima si parlava dello scandalo delle tasse, e a questo punto la discussione su Donald Trump è completamente cambiata. È completamente cambiata, potrebbe cambiare, diciamo, inevitabilmente tutta la campagna, soprattutto per lui, perché comunque quello che accadrà è molto difficile ovviamente da immaginare. La prima azione che ha appena, diciamo, annunciato circa mezz'ora fa il suo campaign manager, il suo responsabile della campagna elettorale, è di posporre, diciamo, di posticipare una buona parte degli eventi, e altri trasformarli in ovviamente in formato, diciamo, digitale. E fin quando lui non potrà apparire, perché, come ha rivelato il New York Times, ha dei sintomi simili al raffreddore, quindi un po' di tosse, un po' di febbre per adesso, diciamo che lui ovviamente non apparirà, cosa che invece molti, diciamo, anche dall'esterno, vari consiglieri, ex consulenti, stanno dicendo che lui deve tornare ovviamente a fare interviste al telefono con Fox News, o comunque apparire in video. Una cosa che inevitabilmente a lui serve, la visibilità, lui fonda l'intera sua immagine sulla visibilità, quella dell'uomo forte, della leadership sprezzante, come raccontato tu prima, sprezzante nei confronti del virus, della mascherina e tutto il resto. Cosa accadrà? Devo dire complesso. Che non ha portato bene essere sprezzanti nei confronti della mascherina e del virus a nessuno dei leader del mondo che lo ha fatto anche martedì durante quello sclerotico Accidenti. Dibattito incredibile. Sì, lui ha preso in giro Joe Biden dicendo io eccola la mia mascherina, ce l'ho, tirandola fuori dalla tasca. Ma per esempio lui, riferendosi a Joe Biden, va sempre in giro con questa mascherina enorme ovunque, anche se alle persone a 200 metri porta la mascherina, è totalmente inutile. E la verità è che fondamentalmente dentro la Casa Bianca, dentro Studio Valley, in tutta l'ala ovest, nessuno porta la mascherina. Opix, che è la sua consigliera per la comunicazione in assoluto, di quelle più vicine, che è quella che, insomma, tutti quanti dicono che è stata quella che ha contagiato appunto il presidente Melania, era una delle poche che tra l'altro la indossava. Accidenti. E tra l'altro rivela Vanity Fair America, che come sai ha una sezione importante di giornalisti politici molto addentro alla macchina di Washington, rivela che Opix era addirittura presa in giro da altre della Ovest per indossare la mascherina, perché era una tra i consiglieri più stretti, era uno dei pochissimi. Ecco, evitare perché non porta bene. Esatto. Joe Biden invece è negativo, ovviamente dopo il dibattito il problema si era posto. Il problema si è posto assolutamente, penso comunque sarà continuato a testare, lo testeranno ancora nei prossimi giorni. Lui ha detto comunque i suoi programmi non cambia i suoi programmi, perché nessuno è stato tutti negativi, e lui e la moglie sono negativi, quindi lui prosegue la campagna che come sappiamo ovviamente è molto ben organizzata, con eventi molto piccoli, estremamente distanziati. Quando lui si avvicina a, diciamo, delle piccole folle di persone, adesso per esempio sta facendo una tre giorni in treno negli stati del Midwest, e inevitabilmente ovviamente nella carrozza del treno ci sono tipo quattro persone, loro due e altre due persone, ci sono delle foto che girano, oppure hanno fatto delle tappe, inevitabilmente le tappe per fermarsi e salutare le persone, e obiettivamente ci voleva un grand'angolo probabilmente per vedere la distanza in cui lui salutava le persone. Ma in questo momento, soprattutto anche data l'età di Joe Biden, che insomma ha soltanto certo. tre anni più di Trump, è inevitabilmente la cosa più corretta del mondo, lui in questo momento non cambierà la sua campagna. Quello che adesso probabilmente toccherà fare a Trump, cioè, diciamo, premetto, sempre se, nessuno glielo augura, se i sintomi non si aggraveranno, certo, potrà sì casomai riapparire in video, però diciamo non me lo immagino propriamente che ritorni a fare eventi di campagna così a breve, quindi fisicamente, salvo che invece appunto non passi tutto in pochi giorni, insomma non, gli, non se ne freghi come ha già fatto e come non mi fatico a, diciamo, a anche a non essere così, diciamo, sono abbastanza scettico sul fatto che se gli passa tutto prende e esce. Non è uno di quelli che, come dire, a un mese dal voto, dal giorno del voto, non mi aspetto che si faccia i 14 giorni di quarantena e se la rigiri sul fatto, vedete, è poca roba, in 5 giorni mi è passata, è tutta una roba. Tutto così. è possibile, dobbiamo capire cosa succederà. Al momento ciò che governano, secondo me, non è nemmeno lo spin, insomma l'effetto che gli possono dare i suoi consiglieri o tutto il resto, ma banalmente è la gravità della malattia. Certo. Questo è. Grazie a Gianluca Di Tommaso, fondatore di Night Review e NR Edizioni, analista di politica americana per US Insider. Grazie Gianluca. Grazie Marta, a presto. Grazie, a presto Gianluca. Ovviamente tutti i nostri auguri di pronta guarigione a Donald Trump e a Melania, ci mancherebbe altro. Una breve pausa e poi saremo ancora insieme, sempre con Effetto Notte. Intimissimi uomo, boxer a 7,90€, nei negozi e online. Vi presenta... Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Maltempo sul nord, allerta rosso sulla Liguria, Venezia si prepara al fine settimana con il Mose. Governo valuta l'obbligo di mascherine all'aperto, contagi ancora alti ma sono in leggero calo. Un mese alle elezioni americane, polemiche su Trump e il suo entourage, Joe Biden e la moglie sono negativi. Abbiamo parlato inevitabilmente tanto di coronavirus perché abbiamo aperto con un approfondimento sulla settimana politica, in particolare sulle ultime che riguardano il governo, quindi recovery fund, quindi misure di sicurezza che potrebbero essere rafforzate nella lotta al coronavirus. Poi abbiamo parlato di esteri, ma ovviamente a fare notizia è la campagna elettorale americana e ovviamente ancora qui il coronavirus, perché da questa mattina abbiamo saputo che Donald Trump e Melania sono purtroppo positivi al Covid-19 e il coronavirus sta incidendo pesantemente anche sullo sport, in particolare sul campionato di calcio. E ci colleghiamo subito con Davide Bucco, autore di Calcio Mercato l'originale, in onda alle 23 su Sky Sport tutte le sere, ma insomma il calcio mercato è quasi finito, mi sa. Davide, buonasera. Buonasera Marta, buonasera a tutti. Il calcio mercato si svolge regolarmente, perché qua è un problema. Cioè, il calciomercato è cambiato anche quello, perché di solito gli ultimi giorni eravamo abituati a viverli nel classico hotel delle trattative, certo. Che quest'anno ha una serie di restrizioni giustamente molto molto molto severe, e quindi ci apprestiamo a vivere due giornate particolari, insomma di chiusura, che sono quella di sabato, poi domenica si gioca, per carità si gioca anche domani, e poi lunedì tutto il giorno, comunque con le dovute precauzioni, certo. Ecco, domenica... anche per noi che facciamo la diretta e raccontiamo la magia del calciomercato. Mi raccomando, domenica si gioca, ma non potranno mica giocare tutti, che cosa sta succedendo? Non giocano tutti perché, per esempio, al Genoa, insomma, abbiamo sentito in questi giorni, sono confermati i positivi, che sono saliti a 18 tra giocatori e staff. E quindi è stata rinviata la partita tra Genoa e Torino, si è creato, insomma ci si è adeguati al protocollo europeo UEFA, che prevede un massimo di 13 persone abilitate a giocare, quindi 13 sani, per poter disputare la partita, inserendo un bonus per una partita sola, in caso la squadra, insomma, non valuti di non giocare. Quindi il Genoa probabilmente usufruirà di questo bonus, anzi sicuramente, visto che la partita è stata rinviata. Certo, e invece per quanto riguarda il Napoli, perché sembrava tutto a posto, ieri tamponi negativi, tutto ok, invece no. Sì, siamo davanti, Marta, adesso anche qui la situazione è molto delicata, siamo davanti al quarto giro di tamponi, oggi positività per Zielinski, tra l'altro una delle pedine fondamentali di Gattuso, Domani dovrebbe arrivare il responso del quarto giro di tamponi e capire quanto l'incubazione nei giocatori del Napoli si trasformi effettivamente in positività, oppure speriamo e ci auguriamo tutti in negatività, perché c'è la grande partita di domenica sera tra Napoli e Juventus, e quindi aspettiamo tutti di capire se questa partita si potrà giocare o meno. Devo dire un anno assurdo anche dal punto di vista proprio della scansione temporale, perché con un campionato di calcio che comunque è ripartito nei tempi più o meno soliti, ci sono dei campionati che invece si giocano ora e che sono in ritardo, in notevole ritardo sulle stagioni. Siamo in pieno Roland Garros, abbiamo dato la notizia della vittoria di Sonego, ma anche quella di Sinner, che sono agli ottavi, e domani inizia il Giro d'Italia, con un clima non proprio da Giro d'Italia, direi, Davide. Ma un Giro d'Italia anomalo anche qui, perché comunque parte in Sicilia, scenario meraviglioso, Alcamo, Castelvetrano, Valle dei Templi, insomma paesaggi meravigliosi senza pubblico. Quella è una cosa pazzesca, perché noi siamo abituati a vedere i ciclisti che vengono sostenuti, incitati, talvolta esatto, disturbati, ma questa cosa mancherà moltissimo. Esatto, Marta. Speriamo che ad essere protagonisti siano i corridori e non il virus. Tra l'altro due giovani, segnalo, Ganna e Ciccone. Ciccone tra l'altro ha vinto anche la sua battaglia contro il coronavirus, e insomma ci fanno ben sperare per il futuro, ma anche per il presente, perché sono due giovanissimi. È un giro anomalo che parte a ottobre, quindi voglio vedere un po', sono curioso di vedere tra tre settimane sullo Stelvio come faranno a salire. Ecco appunto, perché vabbè, forse partire domani dalla Sicilia, io non conosco le temperature in questo momento, ma si può essere abbastanza ottimisti. Tra un mese sullo Stelvio è il giro di Groenlandia. È duro da solo, insomma. Sì, c'è un rischio gavi 88 quando ci sono 2 metri di neve da spostare, però pare che poi, io credo, anzi sono sicuro che l'organizzazione del giro sempre perfetta sia già in possesso di un piano B, ecco. Infatti, speriamo. Senti, per chiudere voglio tornare all'inizio. Il calciomercato, ma quindi nonostante questa situazione complessa in giorni ancora purtroppo di coronavirus, ci sono trattative in corso? Ci sono trattative in corso, c'è una partita in corso in questo momento tra Fiorentina e Sampdoria, è in vantaggio la Sampdoria, Quagliarella sul calcio di rigore, ma siamo concentrati tutti sul futuro di Chiesa, perché insomma c'è la Juventus in agguato, quindi si rinnova sul mercato l'eterno duello tra Fiorentina e Juventus, no? Forse qualcuno ricorderà il caso Baggio, ecco, per esempio, e quindi fino a lunedì alle ore 20 c'è tempo per capire come si muoveranno le squadre. Il Milan deve comprare un difensore, questa sera alle 23 Gianluca Di Marzio probabilmente ci svelerà il nome del difensore del Milan in arrivo, e poi insomma la Juventus e Inter ancora l'ultimo giorno devono fare qualcosa, anche il Napoli, capire il futuro di Milik. Tutto via email, quindi è molto più difficile. Accidenti, per noi, accidenti, per sì. E come ragazzi, fate ad avere le indiscrezioni se tutto passa via email? Vabbè, ce la fate lo stesso. Di Marzio ce la fa lo stesso. Esatto, Gianluca Di Marzio è il re del calciomercato, quindi insomma qualcosa porta sempre in redazione, e poi sì, la raccontiamo volentieri ogni sera, come sempre mischiandolo a musica, spettacolo, cultura. Quindi l'appuntamento alle 23 su Sky Sport con Calciomercato l'originale. Grazie a Davide Bucco, a presto Davide. Grazie Marta, buona serata a tutti. Adesso è il momento della nostra viabilità e poi saremo ancora insieme con Effetto Notte. Intimissimi uomo, boxer a 7,90€, nei negozi e online. Vi presenta... Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E come sempre a quest'ora, il venerdì è il momento del reportage di Radio 24. Radio 24 Reportage. Trump contro Biden. Elezioni americane ad alta tensione. Di Sergio Nava. Excuse me. I got rid of the individual mandate. I'm not here to call out his lies. Everybody knows he's a liar. But you, I just want to make sure. Joe, you're the liar. I want to make sure. You graduated last in your class, not first in your class. Il primo dibattito presidenziale fra Donald Trump e Joe Biden, svoltosi nella notte italiana tra martedì e mercoledì scorso, ha rappresentato una prima assoluta nella storia dei dibattiti televisivi statunitensi. Nella più edulcorata delle definizioni è stato bollato come caotico, per non dire di peggio. In ogni caso, un pessimo spettacolo. Così, quando manca circa un mese alle elezioni americane del 3 novembre, cerchiamo di fare un po' di luce nella sempre più complicata politica americana, segnata per sempre dalla quadriennio Trump. Lo faremo partendo proprio da una disamina dei 4 anni di presidenza attuale e guardando a quello che potrebbe avvenire dopo, a seconda di chi vincerà le prossime elezioni, con noi analisti ed esperti di politica americana. E con il primo di loro, Mauro Della Porta Raffo, presidente onorario della Fondazione Italia USA, iniziamo analizzando il quadriennio Trump. Prima però un rapido giudizio sul primo dibattito presidenziale. In questi dibattiti in realtà quello che ci si prefigge è di compattare le proprie truppe in qualche modo, ed è quello che ha fatto soprattutto Trump, con durezza, con rudezza in qualche modo, diventando inviso ancora di più rispetto a moltissime persone che non la vedono dal suo punto di vista, ma riuscendo senz'altro a compattare le sue truppe. Andiamo ora con lei a fare una veloce disamina di questi 4 anni di presidenza Trump, partendo dall'economia e anche dalle disuguaglianze. Ma quanto alle disuguaglianze accentuate è un qualcosa che stiamo verificando oramai da parecchio tempo, non è soltanto dal momento in cui Trump è arrivato alla Casa Bianca, è una cosa anche precedente e non riguarda naturalmente solo gli Stati Uniti. Bisogna anche ricordarsi che prima che arrivasse il coronavirus, il Covid, tutti dicevano che da un punto di vista così, di un giudizio per quanto possibile equanime, la situazione economica con Trump era migliorata. Poi abbiamo avuto come conseguenza di questo arrivo, di questa pandemia, un peggioramento della situazione, ma non così drammatico come ci si sarebbe in qualche modo aspettato. Lei ha accennato alla pandemia. La gestione di questo coronavirus, di questa crisi da Covid-19 è stata così disastrosa come viene spesso detto? Ma allora, intanto è una situazione talmente particolare, talmente inaspettata che bisognerebbe anche capire quale poteva essere il modo giusto per affrontarla. È evidente che ci sono state delle carenze, ma in ogni parte del mondo. Andiamo sulla questione razziale, anche le violenze a cui abbiamo assistito nel corso dell'estate. Con la presidenza Trump la divisione interna alle comunità, la divisione razziale si è accentuata, inasprita? Ma questa è una cosa ricorrente. Andando indietro nel tempo lo troviamo moltissime altre occasioni. Nel 68, quando c'era la campagna che poi ha portato Richard Nixon alla presidenza, le proteste sono naturalmente più che giuste, per la miseria, assolutamente più che giuste. È il dove si arriva protestando che non va bene, no? Quindi è quando a un certo momento si arriva alla devastazione e a comportamenti che evidentemente non possono essere consentiti, anche perché ledono altri cittadini. Il problema non è politico, il problema è sociale a un certo momento. E chiudiamo con le relazioni con l'estero, in particolare con l'Europa e anche ovviamente poi con Russia e Cina, i controversi rapporti con la Russia e i difficili rapporti con la Cina. Credo che questo sia un po' conseguenza di quello che già stava accadendo precedentemente. Si può andare addirittura alla campagna elettorale, non alla presidenza, alla campagna elettorale di George Walker Bush del 2000, nella quale diceva esplicitamente che si intendeva rivolgersi a tutto il resto del mondo, ma non tanto all'Europa, in particolare naturalmente all'Asia. Ma in qualche modo c'è da quel momento, e lo stesso Obama si è assolutamente distaccato dall'Europa. È una conseguenza, si sta andando avanti. Trump, per la formazione che ha fatto qualcosa che era conseguente alle sue idee, alle sue inclinazioni, per quanto riguarda l'Europa sto dicendo, per quanto riguarda il resto con la Russia c'è questo amore e odio nei confronti di Putin, ma forse più amore che altro, e per quanto riguarda la Cina c'è una contrapposizione del tutto giustificata, perché sono i due colossi mondiali che si contendono in qualche modo l'economia mondiale. Bene, è arrivato ora il momento di guardare alla presidenza che verrà a seconda di chi vincerà le prossime presidenziali. Con noi altri due esperti a cui abbiamo chiesto di formulare previsioni sulla base dei programmi dei candidati. I temi sono economia e tassazione, questione razziale e immigrazione, rapporto rapporti Stati Uniti-Europa, rapporti Stati Uniti-Cina. Iniziamo con Giampiero Gramaglia, giornalista esperto in relazioni transatlantiche e consigliere dell'Istituto Affari Internazionali di Roma. Un punto in comune sarà quello di incoraggiare la crescita, perché la nuova presidenza uscirà dalla fase di recessione della pandemia. Rispetto all'amministrazione Trump, che ha già operato la riforma fiscale, Biden annuncia passi indietro su quella riforma, cioè il ritorno a forme di tassazione che creino più distinzione tra la tassazione delle fasce di reddito. E poi una differenza importante nell'ambito economico sarà quella fronte energetico, perché Biden annuncia il ritorno degli Stati Uniti negli accordi di Parigi sul cambiamento climatico, mentre Trump resterebbe sulla sua linea di non scoraggiamento delle energie tradizionali. Questione razziale riesplosa quest'estate anche immigrazione. Qui come vedi le differenze nei prossimi 4 anni? Beh, l'immigrazione è un tema che Trump ha un po' tralasciato nella sua retorica elettorale e nelle sue scelte amministrative, perché si è trovato in difficoltà a fare quello che aveva promesso. Anche il muro non è stato realizzato. Senz'altro una presidenza Trump proseguirebbe nei trend del primo mandato, la presidenza Biden sarebbe più aperta ai problemi, in particolare dei migranti già presenti negli Stati Uniti, regolarizzazione, il problema dei Dreamers. Law and order è il tema cavalcato da Trump negli ultimi mesi, equivarrebbe a una maggiore repressione delle proteste, più poteri alle forze dell'ordine, scelte opposte da parte di Biden, non incoraggiamento della violenza, ma comprensione dei motivi delle proteste. Stati Uniti ed Europa, chi dei due potrebbe riavvicinare di più le due sponde dell'Atlantico? Trump riesce ad allontanarle con una certa velocità. Biden forse non avrà la priorità di riavvicinarle, ma gli basterebbe riportare la situazione a quella che era 4 anni fa, cioè di una relazione amichevole basata su valori comuni, probabilmente non di estrema attenzione da parte degli Stati Uniti, ma non conflittuale. Infine, Stati Uniti e Cina, qui i due programmi sono più simili? I due programmi a parole sono simili, perché Trump vuole l'accordo commerciale con la Cina, però lo fa negoziando con la pistola sul tavolo delle sanzioni e delle accuse alla Cina per la pandemia, e Biden deve sottrarsi alle accuse di Trump di essere l'amico della Cina, quindi anche lui dice bisogna negoziare, ottenere condizioni migliori. In realtà poi probabilmente l'amministrazione Biden non cercherà il confronto come lo fa l'amministrazione Trump, sarà più morbida nei toni. E sentiamo ora l'opinione di Mario Del Pero, Senior Associate Research Fellow presso l'ISPI di Milano. I programmi dei due candidati sono molto diversi. Biden intende riaumentare la corporate tax, riportarla mi sembra dal 21 al 28%, quindi politiche fiscali differenti anche per andare a incidere sui livelli di deficit che sono diventati macroscopici, lo erano già prima del Covid, con Trump erano quasi raddoppiati e oggi la situazione da questo punto di vista è molto critica. Questione razziale riesplosa in estate. Però da un lato c'è un lascito pesantissimo di questi 4 anni, che non è un lascito determinato solo da quel che Trump ha fatto o non ha fatto, riflette una frattura, una tensione molto molto profonda negli Stati Uniti, che ha portato a un pieno riemergere della questione razziale. Questa è la grande sfida del futuro. È chiaro che Trump quella frattura e quella polarizzazione che oggi lacera un'America in sofferenza la cavalca e la sfrutta politicamente, ed è immaginabile che continuerebbe a farlo anche nei prossimi 4 anni, laddove Biden cercherebbe di ricomporla in qualche modo o di offrire un messaggio interrazziale più marcato. Chi tra i due può meglio riavvicinare Stati Uniti ed Europa? io credo Biden perché parla una lingua di un internazionalismo liberale nella quale il comune denominatore atlantico occidentale rimane forte e centrale, fermo restando che Europa e Stati Uniti hanno visto venire gradualmente meno alcuni elementi centrali che li avevano uniti durante la Guerra Fredda e anche nell'immediato dopo Guerra Fredda. Le priorità geopolitiche degli Stati Uniti sono altre, le interdipendenze economiche hanno una direttrice transpacifica che forse è diventata più forte di quella transatlantica. E chi tra i due potenzialmente potrà mantenere l'atteggiamento più duro nei confronti della Cina? Trump ha costruito una politica estera nella quale l'elemento anticinese è centrale, però il problema con la Cina è un problema in una certa misura strutturale che rimanda a una crisi della globalizzazione nella quale siamo precipitati forse già dopo il 2008 e tutto quel che ne è seguito, che negli Stati Uniti provoca una forte ostilità diffusa, trasversale e forse anche bipartisan, uno dei pochi elementi bipartisan dell'America d'oggi, diciamo una critica forte e radicale nei confronti della Cina. E quindi è presumibile che anche un'amministrazione Biden, pur abbassando il tono della polemica contro la Cina, continua a perseguire delle politiche più rigide nei confronti della Cina. Prima di chiudere, uno sguardo ai prossimi appuntamenti da segnare in calendario. Il secondo dibattito presidenziale Trump-Biden si terrà il 15 ottobre, l'ultimo una settimana dopo, il 22 ottobre. Già la prossima settimana invece, il 7 ottobre, il dibattito tra i due candidati vicepresidenti Pence e Harris. Il 3 novembre, pronti alla lunga notte elettorale, tenendo in mente queste piccole ma fondamentali raccomandazioni. Occhio alla conta dei collegi elettorali più che al numero complessivo di voti per candidato. Non aspettatevi necessariamente un risultato definitivo la notte stessa e attenzione pure alle maggioranze di Camera e Senato, anche quelle contano. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. E noi ci troviamo tra poco con il giornale radio delle 22. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.